dove viene il mio Roger? Resisti un core. Stella d'amor, che il mattutino e l'ore precedi, il messaggero sei di notturno orror, tornando in cielo. Dimmi, su tu man velo, vedesti mai in maggior fedeltà di quell'onde il mio ben adorno va? Del tuo non vidi mai cuor più infedele, come Olimpia delirante. Lascio bella i sospiri e le querele. Tempo già fu che anch'io bella vezzosa sembrava l'empio cor che chiude in seno. Però ridico ancor, non sobbireno. Guarda un poco quest'occhi, li conosci bellon, bella? No, dimmi, conosci traditor quest'occhi miei? Credi nel loro ardor di bradamante, vedi il mirato cor? Guardali bene, guardali traditor. Non mi sovvieni, non ti sovvien la fe, ma il cavaliero che le giurasti a me. Laurato cerchio queste, che di tua fe mi dà stipendio. Miralo, o ciel, qual filo mi si squarcia dagli occhi. Oh, bradamante, oh sposa. Il sacro anello sciolse l'incanto, onde l'idea nascosa ne rimaneva il fin del tuo bel volto. I diletti pupilli, occhi stegnosi, stellirati d'amor, oh, fulminati. Torna con questo anello, Ruggero arriverà dal cine il bello. E se allora da te viene riamata, ti perdono e mi parto invendicata. Te, cor mio, te,